tantissimo. Grazie a te. Naturalmente invitiamo grazie tutti a voi. Ad andare a vedere la mostra di Masotti prima del 4 febbraio, visto che c'è sì, chiudiamo, un bel po' di tempo. Sì, c'è il tempo. Abbiamo un mesetto, quindi c'è la possibilità di approfondire un sacco di tematiche. Io ero Stefano W. Pasquini, questo era Coxo Spaziale. Naturalmente ci sentiamo di nuovo lunedì prossimo, sempre dalle 20 alle 21. Oggi abbiamo un po' sforato, mi scuso con Panta 80 che ci seguirà. Vi lascio con un nuovo singolo di Noise che si chiama Plexiglass. Eccolo qui. Grazie. Grazie a voi. A presto. Datemi le ali, ho bisogno di volare. Era una notte buia in Bolognina, ma sentivo quel suono e mi piaceva. La stagione sonora del Binario 69, all'insegna della partecipazione e dell'accessibilità. Binario 69, via dei Carracci 69 7D a Bologna. Ingresso riservato ai tesserati AICS. Info sui nostri social. Benvenuti su Panta 80 Reload. Alessandro e Andrea in questo momento sono impegnati a migliorare le prossime esperienze a bordo della Panta 80 Time Machine, che poi sarai io. Nel frattempo, ci ascoltiamo un po' di musica decente intermezzata, forse da qualche simpatico siparietto delle puntate precedenti. Madonna mia che voce impostata e istituzionale. Potrei fare la Presidente del Consiglio. giustamente io mi ritiro in un erbo tibetano. Non riesco più a parlare. In un eremo tibetano, cioè, grazie. Se tra i due quello che riesce a sillabare meglio sono io, ragazzi. Qua veramente il meteorite dov'è? Lo so. Perché io sono da Trieste in giù, non lo so come citava qualcuno. Ma va bene così. Ma non voglio spoilerarvi il. Perché hai preso l'andreite? Ma non voglio spoilerarvi il proseguo della trasmissione. Musicale che va molto forte, che piace ai giovani, è il pop elettronico, quindi è una grossa novità che noi vi offriamo. Amici ascoltatori, soprattutto voi giovani, sapete che dall'Inghilterra continuamente vengono questi gruppi che presentano una musica nuova. Do you know what Depeche Mode means? No. What does it mean? Well, no? It doesn't mean anything to us. We just found the name in a magazine. In a magazine you found it. I see. No. Perché io credo che Depeche, io il francese non lo conosco molto bene, ma non vuol dire moda pronta? C'è qualcuno che conosce il francese, credo che voglia dire moda pronta. Moda pronta? Ecco, qui abbiamo i nostri cameraman che parlano correntemente il francese. Ok, sono dei bravi ragazzi, direi. Sono tutti ragazzi un po' diversi da quelli soliti che siamo abituati a vedere, con una pettinatura particolare. May I touch you here? Oh no. I see. Touch yours. I see. Yes, you can touch it. Same thing. Ok, good luck to you boys. noi siamo pronti a interloquire con voi. Sentimi come sono fornito. Pronti a interloquire, cioè mi è esplosa la testa. Esatto, deve essere merito del fatto che sto lavorando 87 ore al giorno. E va quindi... bene, hai altre tre a disposizione. Esatto, non, per dormire e svolgere le essenziali funzioni corporali, tipo dormire. Sì. Non, no, in realtà basta guardarmi, si capisce che le spendo per nutrirmi, probabilmente in malo modo. Quindi sono sempre più simile a un solido platonico, la sfera, ma in fondo è sinonimo di perfezione. E quindi vedi, quindi tutto torna. Tutto torna, tutto come i peperoni fritti del giorno prima. Pensavo come il boomerang, ma va bene. Quello dipende se lo sai lanciare. Nel mio caso, probabilmente. Non lo so. Non lo so, non prenderebbe un biglietto per sola andata per degli. Io riesco a tirare un calcio al pallone e farlo andare indietro. Molto bene, cioè sono scene che ti varrebbero milioni di visualizzazioni. Vedi? Su YouTube, lo sai, eh? Non lo so, ma rimango umile. E tu sei ancora qui che insomma fai queste sciocchezzuole con me, queste bagattelle, invece di arricchirti con YouTube? Io sì, non lo so. Assolutamente vabbè. Sì. Bravo. Troppo semplice, se no. Bravo, bravo, bravo, te lo meriti. in assonanza. Sì, infatti. È una cosa bella e soprattutto entrambi abbiamo pensato. Salutiamo tutti gli acufeni che abbiamo prodotto. Esatto. Ciao acufeni. Questo è un altro capolavoro tuo. Thank you. and dumb and blind. I know that sounds unkind, but it seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time is running out for us all. Time waits for nobody. Tell you what's gone wrong. You know what's going on. And it seems to me we've not cared enough or confided in each other at all. It seems that we've all got our backs against the wall. Time waits for nobody. Città. Oh no! Mi sono entrati i ladri in casa! È già la seconda volta! Pensavo che la mia porta blindata fosse sicura. Mi hanno portato via tutto. Ma, signor Rossi, qui ci vuole un professionista serio. Chiami la BM Security di Bertozzi Marco. In tempi rapidissimi le sostituiranno le serrature e aggiorneranno il livello di sicurezza. Così avrà una casa più sicura. BM Security di Bertozzi Marco, fabbri di famiglia a prezzi onesti. 346-708-2065. Grazie signora Laura, lo chiamo subito. 346-708-2065. Inizia ora la seconda parte di Panta 80. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, oh, what a thrill. Goodness, your record's just quitting balls of fire. I let that love hold, I thought it was funny. You came along and you blew me, honey. I changed my mind, love is fine. Goodness, the greatest, just quitting balls of fire. Love a shoe. You're fine. So kind. I'm gonna love this world that you're mine. I took my nails and I put on the thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. You're driving me crazy. The goodness is great. It's just great with balls of fire.

che bello. Sono inebriato di quel magnifico idillio che è l'amore. Smetti di citare Elio, che comunque, come è, e comunque sono cade. Cioè, volevo dirvi che esiste una storia bellissima, ok, che è altrimenti nota come la vera storia della Bluesmobile e di tutte le auto del film, incidenti compresi. Intanto volevo dirti che una cosa che forse non sai, ma la Bluesmobile esiste. Okay. So, intanto che macchina è? Una Oldsmobile, non mi ricordo però il modello. In realtà è una Dodge Monaco del 74. Ok, benissimo. Okay. E tu dici, perché è famosa la Dodge Monaco del 74? Perché è famosa? Perché è l'icona di un'altra grande serie televisiva degli anni 80. Boy Duke. È esattamente la stessa macchina del generale Lee. La Bluesmobile è esattamente la stessa macchina del generale Lee. Nel film lui cita anche la Caddy. Ok, che sarebbe una Cadillac. Una Cadillac, esatto. Ok, in teoria, da quello che deducono, cioè che c'è negli script, doveva essere una Cadillac Fleetwood del 68, mai ovviamente vista nel film e notoriamente barattata per un microfono. Ok, ma ce ne sono altre. Allora, innanzitutto in tutto il film vengono distrutte ben 13 Dodge Monaco. Ok, perché in effetti se ci pensi nel film ne combinano un po' con la che con non la è esattamente come buttare da una paratia delle panda, insomma. Ma in realtà sì, perché sono state acquistate in blocco dalla produzione perché dismesse dalla flotta della California Highway Patrol, quella dei chips, quella di Poncerello, per intenderci. Ma dai. Ok, per cui sono vere, fra virgolette, vere macchine della polizia. Attenzione. Ok, e così ce n'è, per così, per curiosità. Vabbè, intanto anche la targa della Bluesmobile è una targa, fra virgolette, vera, nel senso che è esattamente nel formato delle targhe dell'Illinois. Per cui BDR 529 è effettivamente una targa dell'Illinois. Ok, peraltro, vabbè, così, giusto per curiosità, delle 13 macchine, 5 sono destinate ai primi piani e agli interni. Ok, 2 per le scene ad alta velocità, 3 utilizzate appositamente per i salti, con un serbatoio da un solo gallone, ovviamente per sicurezza, per evitare che se nell'impatto si fosse incendiato qualcosa, fosse esploso un serbatoio pieno di benzina. Ok, giusto. Ok, una sola è quella selezionata, ok, per la scena finale, quando loro parcheggiano di fronte alla polizia di Cook County, del Cook County Building, al termine dell'inseguimento, e la macchina all'improvviso si smonta. Una sola, quella è stata allestita apposta, ok? Cioè c'è della programmazione maniacale. Esatto. Signori miei, ora ho voglia di una Dodge. Lo so, lo capisco, in effetti sì. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio. E portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai! Vabbè, ragazzi. Perché? Andrea. Più basso, non riesco a fare. Sì, sì, infatti. Sei ma per fortuna per le frequenze, per chi come me ha l'acufene ed è in ascolto, vi ho graziato. Ecco, in effetti potresti farlo più spesso di graziarci. Insomma, io non. Così, valuta tua. Pensa tu. Comunque, 1981. Comprerò tante copie di grazie, così vi grazierò. Ok, ciao, arrivederci, grazie. Ma l'hai detto davvero? Ciao, me ne vado, mi faccio schifo da solo. Che lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Particolare puntata di Panta 80 sta per concludersi. Il buon Panta, lo squinternato Andrea e tutta la cricca di animali, identità immaginarie dell'immaginario pantantesco vi salutano e vi danno appuntamento a lunedì prossimo, come sempre dalle 21 alle 22. Glory, hallelujah, gonna rise. la tua salute, SILLAB c'è. Diagnostica, analisi mediche, fisioterapia e altri servizi. Scopri il centro più vicino a te. Parco dei Cedri, Centro Azzarita, Fisiodom, Centro Cavour, Centro San Michele, Chiropratic, CTR, Ionoforetica, Centro San Biagio, La Salute, Centro San Petronio. Per info www.sinlab.it. Direzione Medica SINLAB, Maurizio Ferrari. Forse non tutti sanno che al pub Birreria La Locanda c'è un nuovo impianto per la spillatura. Forse non tutti sanno che tra le vie di birra alla spina ce n'è una senza glutine. Forse non tutti sanno che il pub Birreria La Locanda è via Treves 19 a Bologna, zona stadio. Forse non tutti sanno che si sta bene, ma se tu non lo sai, vai al pub Birreria La Locanda e sappilo! È così bello tornare a casa dopo una giornata di lavoro, con tutta la famiglia e gustare prodotti di altissima qualità artigianale. Dal genio della famiglia Scapin nasce il percorso gastronomico d'eccellenza, come la nostra mortadella, prodotta secondo tradizione filiera corta. Materie prime selezionate 100% italiane e lavorazione artigianale. Artigian Quality. Ci trovi in via Santo Stefano 90A e su artigianquality.com. Più bontà e felicità sulla tua tavola.